Da quello che si legge sui giornali, lo stato d'agitazione dovrebbe partire proprio in queste settimane con l'avvio sostanzialmente del Black Friday, ovvero le giornate di picchi di vendite, data anche appunto dalla questione degli sconti applicati durante il venerdì nero del commercio e così via. E dovrebbe durare, diciamo, fino a Natale, perché di fatto il Black Friday apre proprio l'alta stagione, diciamo, delle vendite di Amazon, che appunto si tira tutto dietro il periodo natalizio. Quello che si legge è che appunto i sindacati, tutte le tre sigle confederali che hanno in qualche modo stipulato, intanto sono dentro l'azienda con i propri rappresentanti, quindi avevano in maggio stipulato un accordo circa i turni, gli straordinari e anche, diciamo, la gestione dei somministrati, lamentano sostanzialmente, come dire, il fatto che Amazon non abbia rispettato quegli accordi, ma soprattutto non abbia rispettato quello che è stato il verdetto dell'ispettorato sul lavoro, che dava circa 1.700 lavoratori in somministrazione in più rispetto ai limiti legali. E sull'accordo, appunto, la questione del non rispetto dell'accordo è perché sostanzialmente avevano contrattato quella che è la turnazione, ma anche le maggiorazioni del 25% per chi era disposto a lavorare, diciamo, volontariamente nei notturni. Invece Amazon ha deciso di imporre quindi la turnazione, tutte, no, appunto, le cose accessorie senza consultare i sindacati. Quindi sostanzialmente quello che si lamenta è la non consultazione in via di implementazione di questo accordo nel periodo natalizio. Non è il primo sciopero che interessa Amazon, comunque non è la prima volta che ne sentiamo parlare, ma secondo te si tratta di un modello, diciamo, di produzione, di industria che in qualche modo può fare a meno di creare conflitto e sfruttare in qualche modo i lavoratori, o invece è qualcosa che alla fine diventa inevitabile e continueremo a sentire di queste istanze? Ma allora, ci sono due questioni, cioè quella dello stato d'agitazione che ovviamente come l'anno scorso parte quest'anno anche dal Black Friday, ovvero lo sciopero come momento di lotta per far male al padrone si fa nel momento in cui può creare più danno economico, ovvero può far diminuire i profitti, e questo ovviamente vale soprattutto durante i picchi, no, delle commesse e quindi delle vendite, proprio per questo quindi si riparte dal Black Friday. Quello che in realtà non so, perché l'anno scorso il sciopero durante il Black Friday non interessava soltanto Castel San Giovanni, quindi il polo di Piacenza, ma molti paesi europei, la Spagna e la Germania soprattutto, e diversi nodi appunto in questi due paesi. Quindi bisognerà vedere se diventa anche quest'anno uno sciopero internazionale, sebbene in qualche modo le rivendicazioni dei sindacati in ciascun paese fossero un po' diverse, nonostante quello che dici tu, appunto. E arriviamo al secondo punto della conflittualità interna a un luogo di lavoro e in generale, no, un sistema produttivo come quello di Amazon, che necessariamente è basato sullo sfruttamento intensivo, se vogliamo, della manodopera e quindi dei lavoratori. Non può essere altrimenti nella gestione privata e monopolistica in cui si trova a lavorare, cioè la persona più ricca del mondo, della storia di sempre, da quello che si sente dire, che è appunto il fondatore di Amazon, ed è effettivamente il magnato, dunque il monopolista ormai sul mercato dell'e-commerce, quindi in qualche modo ha il potere. Infatti nella replica i sindacati loro continuano a dire: ma guardate che noi vi stiamo dando lavoro, no? In un paese depresso come l'Italia, comunque relativamente depresso in termini occupazionali, il gioco è: e allora saranno tutti licenziati. Questo è il solito ricatto, o l'occupazione sfruttata così come decidiamo noi, o altrimenti la disoccupazione, come se non ci fosse più nulla di possibile tra queste due vie, e ovviamente non è vero. Il discorso è che appunto ad Amazon conviene questa cosa, perché appunto ha una posizione talmente forte da poterla sfruttare. Poi dall'altro lato invece ci dobbiamo chiedere se la strategia rivendicativa dei sindacati, tipo quelli italiani oggi, è quella giusta, perché dire che bisogna contrattare di più i premi di produzione piuttosto che invece far lavorare un po' meno e che con ricadute anche psicofisiche sui lavoratori, io credo che sia una battaglia politica a perdere nel lungo periodo, perché significa sostanzialmente, no, un sistema di produttivismo che sì, ricompensa un pochino più i lavoratori, ma il saggio, il margine di profitto su quelle ore di straordinario in più sarà sempre più grande rispetto a quello che viene dato in salari. E in generale, no, come dire, la struttura produttiva anche di Amazon in termini di tecniche, di macchinari, può permettere di aumentare i salari, ma di diminuire le ore di lavoro. E quella sì che è una battaglia molto più conflittuale e che mette in qualche modo in problematicità, se vogliamo, il sistema delle relazioni industriali e in generale l'organizzazione del lavoro in un sito del genere, perché invece, come è successo per esempio in America, Bezos, quindi Amazon, può tranquillamente aumentare di un po' i salari. Fin tanto che lui aumenta i suoi profitti, è una regalia che può fare con o senza l'accordo dei sindacati. Il problema è andare a vedere come ne possiamo mettere in discussione invece il modello Amazon in sé. E infatti un'ultima domanda al volo, ti volevo chiedere un po' sul fronte internazionale, visto che tu dicevi prima, appunto, Amazon insiste anche sul fatto che in Italia in questo momento non c'è lavoro, è una cosa di cui abbiamo parlato tanto, se ne continua a parlare, ma ci sono altre realtà a livello internazionale nazionali che magari sono riuscite meglio a contrastare Amazon? Ma in realtà relativamente meglio, ok, ci sono alcuni casi in Germania, il problema è che è relativamente meglio abbastanza a perdere, e il sistema Amazon, appunto, data la sua grande forza di monopolista, sfrutterà queste circostanze, e lo fa in paesi dove anche appunto la disoccupazione è abbastanza bassa, come in Germania. Poi la Spagna più o meno, diciamo, è ai nostri livelli, se non peggiore in termini di disoccupazione, ma comunque il suo rapporto di forza mai mediato e mai messo in discussione, soprattutto se vogliamo dagli interventi politici, perché ad esempio quello che ci risponde oggi Amazon, appunto su Piacenza, è: noi stiamo rispettando le leggi, fin tanto che le leggi permettono, no, a un capitalista del genere, a un monopolista del genere, di utilizzare i contratti di somministrazione straordinari defiscalizzati o bonus defiscalizzati, lo potranno fare. Quindi in qualche modo, no, c'è un vincolo che la contrattazione non riesce più in qualche modo a contrastare.